Parlatore di libri di Alessandra Tedesco. Quel che affidiamo al vento, romanzo di Laura Imai Messina, pubblicato da PM. Questo è un romanzo delicato e poetico sul confine che esiste fra vita e morte, confine che a volte ci sembra nettissimo, a volte invece labile, a volte magari si può cercare di superare questo confine con la forza delle parole. Questo è un romanzo anche su come si può ridisegnare una nuova geografia degli affetti dopo aver subito un lutto. Quel che affidiamo al vento trae spunto non da un fatto vero, ma da qualcosa di vero, ossia dal telefono del vento che esiste realmente in Giappone. C'è una cabina telefonica, il telefono non è collegato a nulla. In questa cabina telefonica ci vanno le persone che hanno subito un lutto, quindi che hanno perso una persona cara, e parlando sostanzialmente a nessuno in questa cornetta riescono un po' a rapacificarsi, forse a trovare un equilibrio, appunto a ridisegnare una nuova geografia dei sentimenti dopo aver perso una persona cara. A questa cosa si è ispirata appunto Laura Imai Messina scrivendo il romanzo Quel che affidiamo al vento. Laura, innanzitutto, questo è una cosa che esiste sul serio, il telefono del vento? Sì, ci sono anche andata. È stata in verità costruita nel 2010, quindi un anno prima del disastro del Tohoku. Dello tsunami. Sì, quindi quando c'è stato lo tsunami, anche la crisi nucleare di Fukushima, eccetera. E soltanto che poi ha acquisito un significato diverso all'indomani dello tsunami, perché molte persone che abitavano subito vicino hanno cominciato a recarsi lì per parlare con le persone che avevano perso. È qualcosa, insomma, che insomma catalizza l'attenzione proprio emotiva in Giappone. Nella postfazione tu dici che ci sei andata fisicamente a visitare questo luogo, ma hai avuto anche un po' di timore, come se potessi usurpare quella cosa ad altre persone che ne avevano bisogno. In che senso? Beh sì, ho avuto remore per parecchio tempo, perché non è un luogo turistico. Certo. Nel senso, quando uno pensa al telefono del vento in Giappone sa che si tratta di un luogo comunque di dove esprimere il proprio dolore, dove cercare comunque una comunicazione con qualcuno che si è smarrito nel tempo e nello spazio, soprattutto della vicinanza. Però è anche successo, e questo me l'ha raccontato il guardiano del giardino dove è posato questo telefono speciale, è successo anche che le persone fossero andate semplicemente per turismo. E questo ha poi compromesso anche, certo, la visita di altre persone. Di altre persone. Ecco, ricordiamo che tu vivi in Giappone da quasi 15 anni, quindi è una cultura, una realtà geografica ed emotiva, oltre che culturale, che conosci molto molto bene. E così hai inventato una storia, questa sì, di fantasia, in cui c'è una donna, Yui, che ha 31 anni e che nel famoso tsunami dell'11 marzo del 2011 perde la madre e la sua bambina di 3 anni. Viene a sapere dell'esistenza di questo telefono perché lei fa la speaker radiofonica e quindi una volta nella sua trasmissione sente proprio una persona che le racconta questa storia, e qui vicino a questa cabina telefonica incontra un uomo, Takeshi, con il quale si instaurerà un rapporto di profondissima comprensione. Prima di dare qualunque definizione, amicizia, amore, eccetera, io lo definirei un rapporto di comprensione reciproca. Sei d'accordo? Sono assolutamente d'accordo. Proprio all'inizio nessuno vuole niente dall'altro. C'è una condivisione pura, semplicemente di spazi. Entrambi prendono la macchina, il sabato mattina prestissimo si incontrano a Shibuya e da lì fanno questo viaggio lunghissimo. Sette ore di macchina per raggiungere il telefono del vento. Lui entra, parla con la moglie, lei invece rimane sempre fuori a vagare. In qualche modo, ecco, volevo anche inserire in questa storia varie storie di perdita, di dolore, però anche spiegare come ognuno in qualche modo ha una modalità diversa di affrontarlo e come ognuno ha la capacità anche di risalire, nel senso che parlare del telefono del vento, parlare del lutto potrebbe subito richiamare, non so, un'atmosfera cupa della tristezza, del, appunto, il dolore. Però ecco, quello che volevo assolutamente scrivere è più che il prima, il dopo, cioè il processo che porta le persone non a staccarsi dalle persone amate e perdute, ma dal, come posso dire, incorporarle nella propria vita, però da sole, come un dialogo che non è un monologo, è un dialogo a due senza sentire la voce dell'altro, è come quando sentiamo le conversazioni telefoniche, sentiamo soltanto uno che parla. E non sappiamo cosa risponde l'altro, insomma. Esattamente. E poi anche un modo per recuperare anche l'amore per la vita. A questo proposito c'è una frase che ho segnato nel tuo romanzo. Tu scrivi: la gestione del lutto diventava in quell'occasione manutenzione della felicità. Quindi esiste appunto un legame stretto fra la felicità e la capacità di gestire il lutto, quindi il dolore e la sofferenza profondissimi. Certo, nel senso, quando c'è uno strappo del genere, tutto ciò che c'era prima sembra non poterci essere più. E quindi bisogna ridisegnarla in qualche modo, la propria felicità. Non è più una felicità con quella persona, deve essere una felicità con quella persona che non c'è. In questo senso ci vuole un grosso lavoro, e non è un lavoro che viene facilitato da incontri. Sì, viene facilitato un pochino, però ci vuole tempo, e quel tempo bisogna, come posso dire, viverlo in modo tale da creare un nuovo rapporto. Ecco, io credo che il telefono del vento abbia questa capacità, cioè attraverso anche l'immaginazione, attraverso la cura di sé, riuscire a incorporare l'altro, riuscire a sentire la sua voce anche se obiettivamente, anche parlando con un guardiano, dicevamo, cioè non è che alzando la cornetta tu senti realmente la voce, però nella dell'altro. Tua testa sì, è come quando stiamo per fare una cosa sbagliata e ci risuona nella mente la voce della mamma o del papà che dicono no, perché è la stessa cosa, cioè risentiamo le voci delle persone che amiamo. Ecco, prima giustamente sottolineavi che non si tratta di un romanzo cupo, non ci sono, certo sì, c'è il dolore, naturalmente la tristezza, ma io leggendo ho percepito proprio un abbraccio, una carezza, un senso proprio di del prendersi cura dell'affetto e della comprensione. Esatto, perché parte dalla fragilità. Io credo che sia poi quello, cioè la fragilità di fronte a uno strappo grande come un lutto potrebbe sembrare, come posso dire, non un lato negativo, però qualcosa che rende la persona meno pronta ad affrontare. Invece, secondo me, è proprio dalla fragilità che bisogna partire. Bisogna accettarla, bisogna guardare la bellezza di questo essere anche molto sensibile nei confronti di anche della sofferenza. Secondo me non esiste poi una gioia che sia totalmente, come posso dire, slegata. Ma non è anche stabile, cioè è un concetto dinamico. In questo senso bisogna sempre lavorarci. Torniamo alla manutenzione della gioia, sì. Ecco, manutenzione della gioia, anche modi diversi di affrontare il lutto, perché in questo romanzo appunto c'è Yui, abbiamo detto, che ha perso la mamma e sua figlia di 3 anni, c'è Takeshi che ha perso, non nello tsunami, però la moglie, e ha una bimba di 4 anni, Hana, che dal momento in cui appunto la mamma è morta non parla più. E poi ci sono altre persone con le quali loro entrano diciamo in contatto attraverso il telefono del vento, e si capisce proprio che ognuno ha il suo modo di reagire al lutto, al dolore e anche di affrontarlo. Yui, dicevamo, per tanto tempo non entrerà nella cabina telefonica, ci andrà vicino, ma lei quel passo non lo farà. Ecco, dicevamo che fra Yui e Takeshi si instaura un rapporto di comprensione profonda. Ecco, quindi poi Yui, lo possiamo anticipare, conoscerà anche la figlia di Takeshi, però non è quella cosa banale, meno uno più uno, ok, i conti tornano, non è che siccome ha incontrato Takeshi è una bambina, la bambina sostituisce la figlia. Anzi, la complessità dei sentimenti di Yui è tale che tu la fai riflettere sul fatto che forse non avrà la capacità di amare come, chiaro, come amava sua figlia, no, però in genere lei si pone il problema, dice: forse io questa bambina non riuscirò ad amarla veramente. Sì, proprio perché di fronte a un lutto quella è una delle reazioni più naturali, cioè cercare velocemente di trovare una sostituzione. In questo Yui mi sembra molto cauta, non soltanto non cerca una sostituzione, ma la teme. E quindi si ritrova verso il finale, ad esempio... Non facciamo troppo spoiler, no, però. No, una cosa che forse sul finale, nel senso che l'ho scritta verso la fine, cioè l'ho aggiunta verso la fine, fa un gioco di differenze tra la figlia e la figlia di Takeshi. E questa ad esempio è una cosa che mi è venuta in mente perché, come inserisco nel libro, c'è nei combini, le macchine fotocopiatrici, che nel momento in cui uno attende che finalmente le fotocopie siano pronte, c'è un gioco di differenze tra due immagini, una accanto all'altro. E la bambina, la figlia di Yui, aveva l'abitudine di guardare, no, queste immagini, il coniglietto con, non so, il fiocchettino rosso, mentre invece dall'altra parte con il fiocchettino blu. E questo gioco di differenze in qualche modo l'aiuta, una cosa che aveva temuto più di tutte, invece finisce per aiutarla. Siamo diversi, riusciamo ad amare diverse persone in modi diversi, ma siamo sempre noi. In Yui, nel personaggio femminile, c'è anche il senso di colpa, no? Per la morte della madre e della figlia, perché insomma le aveva lasciate lì quel giorno, va bene, siete al sicuro, c'è l'allarme tsunami, i rifugi sono appunto sicuri. Invece lo tsunami ha provocato una devastazione totale. Forse noi in Occidente non ci ricordiamo che ha provocato più di 15.000 morti. È una cosa che in Giappone immagino abbia segnato profondamente la coscienza delle persone. Sì, assolutamente. Io l'ho scritto anche nella nota finale del libro, però non ho voluto toccare appositamente l'incidente nucleare di Fukushima, perché l'Occidente si è concentrato tutto solo lì. Solo su quello, è vero. Perché obiettivamente era l'unica parte che poteva coinvolgere tutto il pianeta, che aveva delle, come posso dire, ripercussioni anche politiche. In quel periodo proprio c'era in Italia, no? Il referendum. E questo in qualche modo mi ha ferito profondamente. Io già vivevo lì, la mia casa ormai era quella, mio marito era giapponese, la mia famiglia ormai, metà della mia famiglia era giapponese. Io vedevo ogni giorno le persone comunque dignitosamente continuare la loro vita. Ho avuto degli studenti all'università che hanno perso ogni cosa e sono arrivati più tardi, ricordo ad aprile, sono arrivati più tardi proprio perché erano, le loro famiglie erano originarie di quella zona. Ho conosciuto parecchie persone che hanno subito dei drammi profondi in quei giorni, e volevo proprio dedicare un romanzo, cioè concentrare un romanzo proprio su quello che è la ferita del Giappone. Ora, al di là dell'incidente nucleare, qua parliamo proprio di persone che hanno cercato il cadavere dei propri cari per settimane, per mesi. Non li hanno come mai fa trovati. Yui all'inizio, che va in questo centro naturalmente, esatto, di accoglienza, ognuno con le sue foto, ognuno alla ricerca di un particolare, di un dettaglio che possa far recuperare anche semplicemente il corpo delle persone che hanno perso. Grazie a Laura Imai Messina, ora in libreria con Quel che affidiamo al vento, pubblicato da PM. Grazie Laura. Grazie. E per questo appuntamento breve con Il Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che va in onda dal martedì al venerdì alle 13.45, mentre nel weekend ci sono le puntate tematiche, il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 11. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.